Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buon inizio settimana da Deborah Rosciani e bentrovati a Salva Danaio. Allora, si era detto che nella manovra d'estate ci sarebbero stati provvedimenti destinati ad alleggerire ancora le bollette di luce e gas per le famiglie e provvedimenti per arrivare allo stesso obiettivo a favore delle imprese. In realtà la manovra, che è intervenuta di nuovo su mutui, sulla class action, sugli scoperti di conto e su tutti questi aspetti, oggi vi ricordo che il Sole 24 Ore pubblica proprio la guida alle misure per le famiglie. Ecco, vi dicevo, sul tema dell'energia la manovra d'estate è piuttosto vaga. D'altronde il petrolio quota praticamente un terzo rispetto ad un anno fa, siamo al di sotto dei $65 al barile, lo ricorderete, un anno fa viaggiavamo a $147 e questa tendenza ha portato la settimana scorsa l'autorità del gas e dell'energia a rivedere ancora una volta al ribasso le tariffe. Ma le associazioni dei consumatori sostengono che si possa scendere ancora e si continua ad osservare anche molto attentamente gli effetti della liberalizzazione del mercato dell'energia partita esattamente per le famiglie 2 anni fa. Gli operatori in tutto questo tempo come si sono mossi? In vario modo, offrendo contratti con sconti sul prezzo della componente energia, oppure offrendo prezzi bloccati, oppure offrendo di pagare una quota fissa, imposte escluse in base ai propri livelli di consumo. Insomma, la situazione è piuttosto eterogenea, ma con che grado di soddisfazione dell'utenza? Insomma, abbiamo un bel po' di argomenti di cui discutere questa mattina con i nostri ospiti. Roberto Tascini, segretario nazionale dell'ADOC, l'Associazione dei Consumatori. Tascini, bentornato a Salva Danaio, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Buongiorno e benvenuto e bentornato anzi a Lorenzo Misani, responsabile Customer Care di Edison, bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. E bentornato anche a Simone Lonostro, responsabile Marketing, Supply e Vendite Corporate invece di Enel. Lonostro, bentornato anche a lei. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. E allora, è un tema che piace molto ai nostri ascoltatori, soprattutto a coloro che in questi ultimi 2 anni hanno fatto la scelta di passare e di cambiare venditore di energia. Con che grado di soddisfazione raccontatecelo all'800240024 oppure scriveteci al 349-238-6666. La borsa, visto che stiamo parlando di numeri, ovviamente abbiamo sempre il primo appuntamento prima di partire con il nostro tema di approfondimento. Stamattina i numeri sono negativi tra i listini del vecchio continente, abbiamo dei cali generalizzati che partono con quello di un punto di Londra. Parigi e Francoforte sono invece in flessione dell'1,6%, Milano meno 2,30% sul FTSE MIB. Stamattina a scendere sono i titoli del settore petrolifero, proprio perché, come indicavamo qualche istante fa, il greggio è scivolato sotto i $65 al barile, che apparentemente è una buona notizia per i consumatori, speriamo anche per la benzina, ma se rallenta il prezzo del petrolio significa che sta rallentando la domanda e che l'economia non dà segnali di risveglio, almeno non sono segnali consistenti. Scendono pesantemente stamattina anche i titoli del settore bancario, un po' ovunque, particolarmente a Piazza Affari. Infatti il Banco Popolare sta guidando le perdite con un calo del 4,78%, Saipem meno 4,66%, Tenaris meno 3,58%, Fondiaria meno 3,41%, sembra quasi un bollettino di guerra in questo momento, Unicredit meno 3,35%, Fondiaria meno 3,23%, Monte dei Paschi meno 3,16%, Eni meno 2,67%, Italcementi meno 2,67%, meno 2,6% anche per Luxottica, per Geox, per la Popolare di Milano, meno 2,5% per CIR, per Fiat che è finita sotto i 7 euro, per Intesa San Paolo, per Telecom, Pirelli meno 2 anche per Buzzi Unicem, per Impregilo e per Generali. Il segno più in questo momento è solo su Finmeccanica, anzi no, su 3 titoli, su Finmeccanica, su Snam Rete Gas e su Ansaldo. E per quello che riguarda Finmeccanica, questa è la notizia della giornata, probabilmente secondo il Sole 24 Ore è allo studio una maxi alleanza a tutto campo fra il gruppo e fondi sovrani libici, per cui questo è il, come dire, il tema che oggi sta forse un po' più degli altri movimentando la seduta di borsa in termini positivi. Per il resto abbiamo un rapporto di cambio a 1,3907 tra euro appunto e dollaro, quindi dollaro in recupero, e questo sta portando peraltro anche il petrolio a muoversi di conseguenza. Io però direi di lasciare il mercato questa mattina, il mercato azionario, per parlare di un altro mercato, quello dell'energia, quello del gas, quello dell'elettricità. Dal 1 luglio tariffe di nuovo in calo nel nostro paese. scendono ancora le tariffe di luce e gas. E i consumatori italiani, grazie al terzo calo consecutivo da inizio 2009, si trovano in tasca già 210 euro in più rispetto allo scorso anno. Dal 1 di luglio, infatti, l'Autorità per l'Energia ha tagliato i costi di elettricità e gas, rispettivamente dell'1% e del 7,7%, con un calo medio totale di circa il 5,7%, che se sommati ai precedenti tagli portano a riduzioni complessive da inizio 2009 a meno 8,4% per la luce e meno 21% per il gas. Una buona notizia dunque per le famiglie italiane, che potranno così contare su un consistente risparmio e dimenticare per ora un anno, il 2008, caratterizzato da spiacevoli sorprese sul fronte della spesa per luce e gas. Sulla scia delle fiammate del greggio, infatti, i costi energetici lo scorso anno hanno messo a segno, trimestre dopo trimestre, un rincaro complessivo che ha pesato sui bilanci delle famiglie per oltre 220 euro su base annua. Ma oltre alle nuove riduzioni derivanti in gran parte dal calo dei prezzi petroliferi, vanno considerate le diminuzioni che derivano dal bonus elettrico per le famiglie in condizioni di disagio. Si tratta in particolare di uno sconto sulle bollette compreso tra i 60 e i 150 euro l'anno, con effetto retroattivo fino a tutto il 2008. Al 30 giugno, ultimo giorno utile per presentare la domanda per il bonus, 1 milione di nuclei familiari hanno già fatto richiesta al proprio comune e circa 600.000, secondo l'autorità, sono stati ammessi al beneficio. Ad accogliere con minore entusiasmo il terzo taglio saranno probabilmente soltanto quegli utenti che, spaventati dalla corsa del petrolio, nei mesi scorsi hanno deciso di bloccare il prezzo delle proprie tariffe, che ora inevitabilmente viaggeranno a livelli superiori dei prezzi stabiliti dall'autorità. 800 24 0024, telefoni già incandescenti questa mattina, ci fa piacere, segno che ancora una volta abbiamo colto nel segno. Allora fateci le vostre domande sul tema di oggi, sia al numero verde ma anche al 349 238 6666. Ci stanno scrivendo appunto gli insoddisfatti del passaggio, mi piacerebbe anche magari che fosse sollecitato qualcuno invece che del passaggio da un operatore ad un altro sia stato soddisfatto, chissà se riusciremo a dar voce anche a queste persone questa mattina. Cominciamo con l'Associazione dei Consumatori. Roberto Tascini, segretario nazionale dell'ADOC. Cominciamo con la nuova riduzione delle tariffe che è stata deliberata dall'Autorità del Gas e dell'Energia. Perché? Un po' perché lo devono fare per ruolo, per mestiere, un po' perché forse ci sono i presupposti anche economici per sostenere questo. Le associazioni dei consumatori dicono che ancora questo terzo ribasso in quest'anno non è sufficiente, che ci sono i presupposti economici per far sì che le tariffe possano continuare ancora a scendere. Tra l'altro, quando l'autorità legge sui giornali, l'autorità del gas e dell'energia, tutte le stime preventive che vengono fatte da autorevolissimi osservatori economici, Nomisma, Ref e quant'altro, si arrabbia sempre molto perché dice, insomma, siamo solamente noi solo il nostro è, come dire, l'organismo istituzionale che ha il compito di dire quello che deve dire sulle tariffe, quindi insomma tutte le altre previsioni lasciano il tempo che trovano. Tascini. Quindi, detto questo, perché voi sostenete che si possa fare ancora di più? Ma detto questo, noi siamo, come giustamente sottolineava, parzialmente soddisfatti, perché riteniamo che ci siano ampi margini per ridurre ulteriormente le bollette di luce e gas, e a dire questo non siamo solo noi, ma è la stessa autorità, perché lo scorso novembre in un'audizione alla Commissione Industria del Senato Alessandro Ortis, presidente dell'Autorità dell'Energia e del Gas, ha dichiarato che c'è un eccessivo peso della fiscalità e degli oneri parafiscali che a vario titolo gravano sulle bollette, ripeto, di luce e gas, e che quindi ci siano margini per poterli ridurre ulteriormente. Basti pensare, ecco, che so che sulle bollette della luce attualmente le imposte incidono per il 14,07 della spesa totale, e gli oneri generali di sistema, che poi magari avremo modo di approfondire, includono tutta una serie di provvedimenti di tasse che si sono accumulati nel tempo e che dovrebbero e potrebbero essere rivisti, semplificandoli e disboscando una vera e propria giungla dove dentro c'è dalla praticamente gli incentivi per le fonti rinnovabili e assimilate, che tanto hanno suscitato anche parecchie polemiche, ai regimi tariffari speciali per le aziende energivore, allo smaltimento delle scorie nucleari, insomma c'è di tutto e di più. Mm-hmm. Che credo che sarebbe opportuno, diciamo, sul quale sarebbe opportuno intervenire per fare chiarezza, per semplificare e soprattutto per eliminare l'altra anomalia del sistema italiano, che è quella dell'applicazione dell'IVA su questi stessi oneri e quindi di una tassa sulla tassa. Mm-hmm. Questa cosa era stata denunciata non solo da noi ma dalla stessa Authority nel maggio del 2007 con una lettera al Parlamento in cui si evidenziava che non era accettabile appunto che l'IVA venisse applicata anche su questi oneri generali di sistema. È un po' come la questione delle accise sulla benzina, Tascini, però quello che subito balza all'occhio allora è come mai abbiamo invitato come dire, gli operatori, distributori, venditori di gas ed energia se poi tutto il peso delle nostre bollette è riconducibile alla fiscalità che ci paghiamo sopra. Detto questo, è ovviamente una provocazione. Qua è chiaro che si rende necessario un intervento politico, parlamentare, legislativo piuttosto evidente e qui chissà allora quando torneremo a parlare di bollette più leggere da questo punto di vista. Detto questo, sicuramente gli operatori che da 2 anni hanno l'opportunità di farsi maggior concorrenza fra di loro possono comunque cambiare un po' lo stato delle cose e alleggerire tutta la spesa che le famiglie italiane devono destinare mensilmente per appunto per l'energia e per il gas. Dicevamo 2 anni di liberalizzazione, mi dia qualche spunto anche su questo, Tascini, in qualità di associazione dei consumatori. Allora, come dire, sono stati raggiunti i risultati che le associazioni si aspettavano oppure anche qui si può fare di più? No, si può fare senz'altro di più e noi siamo anche qui abbastanza insoddisfatti perché abbiamo constatato, almeno dalle relazioni che abbiamo potuto fare, che dopo un'iniziale incertezza c'è stata una fase anche di entusiasmo per cui parecchi hanno aderito, soprattutto nel 2008, alle offerte del libero mercato. E però, come è stato detto anche nella scheda introduttiva, oggi dobbiamo riscontrare molti, molti delusi, soprattutto fra coloro che ovvio hanno aderito alla formula del blocco delle tariffe, perché si sono ritrovati a sottoscrivere contratti nel 2008 quando le tariffe erano al massimo livello ed ora dovranno sopportare quegli oneri per minimo per 2 anni. Questa cosa indubbiamente ha ingenerato parecchia appunto delusione, tant'è vero che adesso c'è un atteggiamento più guardingo. Io credo che su questo fronte c'è da fare molto, soprattutto se le aziende, anche le authority, lavoreranno sul fronte di una maggiore chiarezza e trasparenza dell'informazione e poi gli utenti, i consumatori dovranno valutare le singole proposte, soprattutto partendo da quello che è il loro profilo di consumi, per cui non c'è una proposta in assoluto che possa valere per tutti, ma ognuno ovviamente in base ai consumi che ha, in base alle caratteristiche dei propri consumi, deve fare una ponderazione adeguata, anche per evitare, come è accaduto ad esempio per, adesso cito una delle proposte che all'inizio ha avuto molte adesioni, quella della tariffa bioraria, sì, che poi per una anche semplificazione nei messaggi commerciali è stata tradotta come un qualcosa che avrebbe portato comunque dei vantaggi e invece poi sappiamo che questi benefici scattano solo se i consumi dei singoli utenti sono concentrati nelle ore che vanno, nelle ore notturne, quindi dalle 19 in poi, e nei fine settimana, nei weekend e nelle giornate festive. E questi consumi devono raggiungere almeno i 2/3, per cui altrimenti anche lì le aspettative vanno deluse. Certo. E molti hanno riscontrato invece che delle diminuzioni delle proprie bollette, dei forti incrementi. Allora, visto che lei mi ha sollecitato intanto sulla fetta dei consumatori che negli ultimi 2 anni, spaventati inevitabilmente dal volo del prezzo del petrolio, un po' come hanno fatto con i mutui, lei faceva questo paragone giustamente, hanno bloccato le tariffe proprio sul loro livello massimo, credo che questa sia una cosa che interessi più soprattutto i clienti di Enel. Simone Lonostro, allora, questo è un problema di cui avete preso coscienza perché voi, tra l'altro, l'ultima offerta di Enel, che è stata accompagnata anche da un'intensa campagna pubblicitaria prima di quella dell'aumento di capitale, è stata proprio l'energia tutto compreso, no? Che ha offerto ai consumatori proprio un pacchetto definito infinito disponibile in tre tagli, e poi ne parleremo, ma ancor prima avevate fatto l'offerta per bloccare le tariffe. È proprio un'offerta che, come dire, aveva l'obiettivo sicuramente di proteggere questa spesa da ulteriori rialzi. Di fatto però adesso qualche cliente si trova ingabbiato in questa offerta, non ne può uscire facilmente. Allora voi che cosa state rispondendo a chi vi contesta, tra virgolette, anche questa situazione in questo momento? Buongiorno innanzitutto. Allora, innanzitutto vorrei puntualizzare subito che noi di clienti ingabbiati non ne teniamo neanche uno, perché per loro fortuna hanno la possibilità di uscire dal contratto secondo le modalità previste dalla normativa, e quindi con tempi abbastanza contenuti, perché nel giro di 3 mesi possono assolutamente disdire il contratto se non lo ritrovano interessante o vantaggioso. Poi un'altra delle cose che mi preme dire è che per fortuna di tutti coloro che l'hanno sottoscritta, e anche un po' per nostra lungimiranza, di quelli che hanno chiuso contratti con la formula energia tutto compreso, sono ancora pienamente nella fase in cui guadagnano nonostante gli abbassamenti della tariffa, perché affinché il contratto energia tutto compreso diventi svantaggioso rispetto alla tariffa ce ne devono ancora passare parecchi di abbassamenti di tariffa. E per tutti gli altri, in ogni caso, come abbiamo sempre detto, è importante non concentrarsi solo sui, comunque non neghiamocelo, 50-100 euro di risparmio annuo che si possono ottenere prendendo le tariffe che sono presenti sul mercato libero, ma anche su tutto ciò che è qualità del servizio offerto. È vero che su questo aspetto molte cose devono essere ancora migliorate, però innanzitutto... No, noi poi magari se i due aspetti stanno anche insieme, è anche meglio lo nostro, no? Che dice? Sì, beh, questo è ovvio, però voglio dire, in un sistema dove la stessa autorità riconosce come remunerazione della componente di vendita un corrispettivo che cuba 30 euro a cliente, non è che si possa poi pensare di avere dei risparmi galattici. I risparmi normalmente seguono l'andamento del petrolio, e quindi può esserci la fase in cui va bene e la fase in cui va male. Il paragone che ha fatto lei sui mutui è molto calzante. È vero che in questo momento i mutui a tasso variabile sono più bassi dei mutui a tasso fisso, ma c'è molta gente che con mutui a tasso variabile è andata avanti. No, certo, la scelta, come dire, del parametro fisso, della definizione fisso, è perché si sceglie proprio la protezione. Io su questo non metto assolutamente in discussione. Quello che volevo capire era se, appunto, io poi ho utilizzato il termine ingabbiato, perché insomma, come lei sa, noi giornalisti utilizziamo ci concediamo sempre delle licenze piuttosto stravaganti, ho messo tra virgolette questo termine, però in ogni caso, ecco, così l'unica cosa che volevo capire era se ci fosse la possibilità, qualora qualcuno adesso prendesse coscienza del fatto che non fosse più un'offerta conveniente secondo il proprio profilo, se ci fosse appunto l'opportunità di disdire questo contratto, e lei ci ha confermato che si può fare. Lorenzo Misani, Edison Casa, è come dire l'offerta commerciale del mercato libero di Edison, presentata come ultima tra tutti gli operatori del nostro paese. Infatti mi ricordo che avevamo invitato sicuramente lo scorso autunno, e insomma ci avete messo un po'. Per quale motivo, tra l'altro, che non mi ricordo perché ce l'aveva spiegato? Mi ricordo, l'aveva chiesto anche lo scorso anno. Di sicuro abbiamo voluto capire lo scorso anno che cosa chiedeva il mercato, proprio per poter partire con il piede giusto e portare sui potenziali clienti una risposta alle loro domande. E devo dire che la risposta è stata vincente, perché ci troviamo qui dopo quasi 9 mesi a parlare di Edison Casa, e di fatto Edison Casa, dopo queste 3 riduzioni delle tariffe dell'autorità, si riconferma ancora una volta la miglior offerta sul mercato. Vabbè, questo, quindi, lo dice lei naturalmente, ci mancherebbe altro. Non dicesse, diciamo, qualcosa di diverso, vorrei sentire poi anche i nostri ascoltatori se la pensano nello stesso modo. Io spero di sì. Si riconferma sicuramente anche guardando il sito dell'autorità, dove è presente un comparatore di prezzi, e scegliendo nelle diverse possibili casistiche di consumo, di anche localizzazione geografica, comunque l'offerta di Edison Casa esce come la migliore offerta. Quindi, nonostante la diminuzione delle tariffe, per tutti i profili, voglio dire, di consumo, sì. Purché domestici, ovviamente, perché è un'offerta che nasce per il domestico. E perché voi avete puntato particolarmente sullo sconto del 20% sulla componente energia. Sulla componente energia, sì. Quindi di fatto che è l'unica sulla quale si può agire, immagino. Tendenzialmente come operatori del mercato libero, a meno che sì. Non rinunciate voi a qualcosa, certo. Assolutamente. E recepisce appunto le variazioni delle tariffe di maggior tutela dell'autorità, e quindi i nostri clienti di fatto sono sereni e non hanno bisogno di fare nessun conto, e comunque risparmiano sempre. Ecco, questo è il concetto. Devo dire che ci eravamo anche lasciati l'anno scorso, e mi fa un po' sorridere che dopo 9 mesi torniamo a parlare di servizio, perché noi avevamo puntato e ci eravamo organizzati per partire bene non solo dal punto di vista dell'offerta commerciale, ma anche dal punto di vista del servizio offerto al cliente. E su questo fronte devo dire che l'autorità ci ha riconosciuto un buon 2008, perché dall'indagine che è stata eseguita dall'autorità su base statistica, ovviamente con delle chiamate fatte a clienti che hanno contattato i contact center di 25 operatori, Edison nel secondo semestre del 2008 si è rivelata come la migliore azienda dal punto di vista dei servizi di contact center. Benissimo, allora questo è quanto vi è stato riconosciuto, adesso cercheremo di capirlo anche dai nostri ascoltatori, se hanno avuto delle esperienze più o meno felici e con questa azienda o con l'altra con la quale stiamo parlando, con Enel, e sentiremo le perplessità ma anche le soddisfazioni sul passaggio al mercato libero. C'è un ascoltatore che scrive: Deborah, in azienda da me stanno passando i venditori Edison ed altre società ovviamente, che invitano a fatturare con loro solo il consumo, lasciando all'Enel il canone. Io non mi fido molto di tutta questa operazione, che si preoccupa di farmi risparmiare. Buon lavoro Cesare. Boh, cosa sarà successo a Cesare? Adesso ci ragioniamo un attimo a microfoni spenti. Allora, questa mattina siamo partiti dalla notizia recentissima della nuova riduzione di tariffe di energia e gas che è stata deliberata a partire dal 1 luglio dall'autorità del gas e dell'energia, e questa nuova riduzione, come dire, è proprio concomitante all'anniversario, sono 2 anni che in sostanza il nostro paese ha avuto questo ingresso, la liberalizzazione del mercato dell'energia per quello che riguarda le famiglie. E tutti gli operatori praticamente che operano nel nostro paese ovviamente hanno presentato le loro offerte, chi lo ha fatto immediatamente, chi invece ha aspettato un po'. Di fatto adesso tutti hanno predisposto le loro offerte per il mercato libero, ma i passaggi da un operatore, da un venditore ad un altro avvengono sempre con qualche difficoltà per anche l'utente più soddisfatto, e ovviamente questa essendo una trasmissione di servizio il totalmente soddisfatto non ci chiama, ci invece chiama chi ha qualche problema. Adesso, come vi dicevo, comincerò a sentire anche qualche ascoltatore, e però volevo prima sentire un'altra considerazione di Roberto Tascini dell'ADOC, che poi girerò anche all'ospite di Edison e all'ospite di Enel. Tascini, perché molti ascoltatori sostengono che, come al solito, la riduzione delle tariffe, questa di luglio è la terza di quest'anno, avviene sempre in concomitanza della stagione favorevole, dopodiché in autunno, quando i consumi cominceranno a correre di nuovo perché si accenderanno i riscaldamenti e quant'altro, le tariffe invece ricominceranno ad avere la tendenza contraria. Come dire, un'ovvietà questa? Hanno ragione gli ascoltatori? Cosa ne pensa? Ma in effetti sì, la valutazione che facciamo è che purtroppo è chiaro che le revisioni che fa l'Authority sono legate al prezzo, come è stato detto, del barile del petrolio, e quindi subiscono, diciamo, un andamento ciclico. La cosa singolare, sì, questa l'abbiamo constatato anche per la benzina, è che poi per la benzina accade il contrario: quando ci sono i picchi di consumo d'estate, che la gente va fuori, abbiamo degli incrementi notevoli. Infatti, quasi sempre. Tascini, la interrompo non per maleducazione, ma perché c'era un ascoltatore pronto proprio con un commento su questo. Pietro da Bergamo, mi scusi ma non me ne ero accorta che era pronta la sua telefonata. Buongiorno. Buongiorno a lei. Infatti la considerazione era questa, che le tariffe del gas soprattutto hanno iniziato a essere ridotte dal 1 di aprile. Guarda caso, i riscaldamenti di solito finiscono il 15 di aprile. No, sì, per la verità il 1 gennaio c'era stata la prima riduzione. È vero. Primo trimestre dell'anno, se sì. Se non ricordo male. Sì, Pietro, la stiamo perdendo. La qualità del collegamento non è ottimale. C'è ancora? Il discorso è semplicemente quello, che appunto il 95% del consumo avviene durante il periodo ottobre-aprile. Guarda caso le tariffe hanno iniziato a scendere, sì, qualcosina a gennaio, ma simbolico, aprile-luglio. Adesso vedremo però a settembre, quando sarà ottobre il prossimo scatto, cosa succederà. Pietro, io credo che riaumenteranno. Speriamo di no, quantomeno se il petrolio dovesse mantenersi intorno a questi livelli magari potremmo avere un autunno, non dico tutto l'inverno, un po' più sereno. Detto questo, Tascini, poi riprendo a conversare con Enel e Edison. Quali sono i suggerimenti che in questa fase, per quelle famiglie che fossero ancora interessate al mercato libero in questo momento, quali sono i consigli che dà un'associazione dei consumatori? Io partirei intanto dal presupposto di avere una estrema chiarezza sul tipo di consumo che si fa all'interno della propria famiglia, però questo è sufficiente? Sì, senz'altro. Io credo che la prima cosa che deve fare qualsiasi consumatore è di analizzare in maniera molto sistematica e approfondita nel dettaglio quello che è il proprio consumo mensile e annuale, e quindi il proprio trend di consumo. Dopodiché ci sono, come è stato detto, le offerte commerciali di diverse aziende, di diverse imprese, e può, ha la possibilità anche di verificare sul sito dell'Authority di comparare queste offerte e di vedere quella che può essere più calzante, diciamo, in base a quelli che sono i propri consumi. Deve fare questo con estrema però, ecco, cautela, perché ritorniamo al discorso anche in parte che era stato accennato da lo nostro. Noi abbiamo la sensazione che questa liberalizzazione per i più svariati motivi non sia effettivamente ancora decollata, nel senso che le offerte non sono così sconvolgenti o vantaggiose. È stato detto infatti dal rappresentante di Enel, giustamente, dice, ma ci sono altre componenti che incidono, che sono la qualità del servizio. Perché purtroppo, ecco, dobbiamo constatare che quello che è il vantaggio economico, che probabilmente è la cosa a cui guardano nell'immediato i consumatori, non è così sconvolgente, nel senso che si è parlato di 50-100 euro l'anno. Noi abbiamo constatato che per le offerte commerciali che sono state fatte in passato addirittura si arrivava a 10-15-20 euro l'anno, quindi cifre irrisorie, effimere, che non consentono ovviamente un decollo un cambiamento diciamo di operatore così consistente, perché, ripeto, non c'è appetibilità nei confronti di queste offerte commerciali. Tra l'altro, a parte l'appetibilità, va detto che comunque il passaggio da un gestore, da un venditore ad un altro, è un passaggio sempre particolarmente problematico, perché il dialogo fra gli operatori è particolarmente problematico. Poi ce lo stavamo dicendo anche con Lorenzo Misani di Edison a microfono spento, adesso magari ne parleremo. Volevo però far spiegare a Simone lo nostro quali sono le caratteristiche di questa ultima offerta di Enel, che comunque è il più grande player sul mercato. Avete predisposto questa offerta per tagli, e visto che io sono partita prima con questo suggerimento da dare ai nostri ascoltatori, che è l'analisi piuttosto accurata delle proprie esigenze di consumo, che sicuramente possono anche cambiare, perché magari possiamo cambiare casa, abbiamo l'opportunità magari di spostarci, oppure abbiamo l'obbligo di spostarci perché cambia la nostra situazione lavorativa e quant'altro. Insomma, anche lì, come si fa a stabilire se per noi è adeguata la taglia small, la medium o la large, perché proprio in questo modo si chiamano le vostre tariffe, lo nostro? Beh, innanzitutto noi abbiamo predisposto presso i nostri call center uno strumento che tra l'altro è consultabile anche online presso il nostro sito, dove in base allo storico dei consumi, in base a quello che è scritto sull'ultima bolletta pervenuta, si può efficacemente definire qual è la taglia più adatta alle proprie caratteristiche di consumo. Detto questo, nel momento in cui si verificasse che questa taglia non viene rispettata, c'è la possibilità di cambiarla senza nessun onere aggiuntivo. E detto anche questo, quello su cui noi abbiamo puntato relativamente a questa nuova offerta è stata una considerazione, se vuole, la palissiana, proprio in virtù del fatto che in fondo i 50-100 euro, per quanto, per carità, non trascurabili, ma per fortuna dei cittadini italiani, non cambiano la qualità della vita praticamente a nessuno. Abbiamo pensato che forse sarebbe stato meglio per un consumatore italiano avere per la prima volta, ed è l'unica offerta che consente di farlo, la chiara evidenza esattamente di quello che si andrà a spendere, senza andare a scervellarsi sul capire cosa significa PE, CD, PD, INT, DP o altri UC1, UC2, A2, che sono più sigle di autostrade che di corrispettivi di energia elettrica. Poi ripeto, nel momento in cui se questo taglio non viene rispettato, perché ovviamente ci può essere un mese in cui, non lo so, magari ospitiamo una persona e la doccia va e l'energia schizza, dottor Lo Nostro, cosa succede? Se la medium non è, per esempio, per un determinato bimestre, la taglia all'interno della quale riusciamo a stare, cosa succede? Paga un corrispettivo variabile a questo punto per tutti i kilowattora che supera una taglia, che è assolutamente in linea con quello che è il corrispettivo variabile della tariffa dell'autorità. Quindi non succede niente di sconvolgente. Ovviamente non si percepisce un beneficio, perché il beneficio si percepisce se si resta dentro la taglia, ma se si va oltre la taglia si ha un risultato neutro. E se invece rispetto alla taglia si risparmia molto, perché magari la casa rimane chiusa per un mese? Beh, se rispetto alla taglia si risparmia molto, è il caso probabilmente di scegliere quella più piccola, cioè la small. Sì, ma se non lo potessimo sapere, ammettiamo che abbiamo un'emergenza e ovviamente Enel non ci restituisce niente. Beh, quello è chiaro. Se però si ha questo tipo di preoccupazione, allora è meglio andare a scegliere un'offerta che va sul variabile che l'offerta che vendiamo sul web. No, ma solamente per rispondere, come dire, alle situazioni di emergenza che si possono verificare nelle banche. Una situazione di emergenza non inficia il beneficio annuo. È chiaro che se compriamo, decidiamo di scegliere una taglia medium per una casa che usiamo un mese all'anno, probabilmente abbiamo sbagliato taglia e quindi dobbiamo andare sulla taglia small. Sì, no, stavo pensando magari, che ne so, al periodo di ferie in cui le case si chiudono, ma sono, come dire, periodi che generalmente possono essere preventivati. Senta, le faccio sentire una domanda di un ascoltatore che ha avuto un problema con voi, sentiamo se riusciamo a risolverglielo in diretta, forse ce ne sono un paio. Tiziano da Lecco, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno, grazie per l'opportunità. Grazie a lei, Tiziano. Ci dica. Niente, io esattamente un paio d'anni fa ho cambiato gestore, posso anche dire dovere con chi sono passato? Ma ci mancherebbe, Tiziano, siamo qua per questo. Okay, non vediamo l'ora di saperlo, anzi. Non vorrei fare cattiva pubblicità. Sì, ma mi pare di capire che sia il nostro ospite, per cui io per questo l'ho fatta passare, Tiziano. Beh, niente, comunque io sono passato da Enel ad Enel Energia. C'è Simone lo nostro che è pronto a rispondere, ci mancherebbe che non lo dicessimo. Sì. Perché mi avevano paventato dei vantaggi che indubbiamente inizialmente ci sono stati, ma poi con il passare del tempo sono scomparsi del tutto, anzi io mi sono ritrovato a parità di consumo, anzi a consumo un po' inferiore perché visti i tempi si cercava un pochino di economizzare, a pagare un 30% mediamente in più. Sì. Questo nonostante avessimo a suo tempo aderito alla proposta che ci hanno fatto di bloccare i prezzi, che era una cosa che era uscita, non ricordo esattamente quando, comunque... No, quello che mi viene in mente è che ti hanno provato a ridiscutere eventualmente l'offerta, comunque ad individuare se ci fosse un profilo migliore per lei e a fare una chiacchierata appunto con l'azienda, magari attraverso il call center per capire... Ho chiamato l'azienda chiedendo spiegazioni, loro mi hanno risposto semplicemente dicendo che era stato fatto il conteggio dei consumi, di conseguenza quelli erano i risultati. Mm. Anche io dopo poco tempo ho cambiato di nuovo gestore. Ah, ecco. E adesso non sono più con l'energia. Vabbè, Tiziano, allora adesso Simone lo nostro, sono sicuro che spiacerà moltissimo aver perso un cliente che ritiene invece di non aver goduto pienamente, anche se diceva che in una fase iniziale invece era stato soddisfatto, insomma, del passaggio all'offerta sul mercato libero di Enel. Lo nostro lo dobbiamo riconvincere a rivenire di là oppure lo lasciamo andare così? No, beh, proveremo sicuramente a riconvincerlo, fermo restando che non forziamo nessuno, perché è chiaro che se qualcuno trova delle offerte che ritiene più vantaggiose è giusto che sfrutti il beneficio del mercato libero. Qui obiettivamente dire che cosa è successo se esatto, il bisogna avere un attimo un po' un quadro più dettagliato sicuramente della situazione. Diciamo che se ha bloccato il prezzo nel 2008, il prezzo dell'energia per definizione, non gli essendo le nostre offerte biennali, non deve essergli stato toccato. Quello che immagino possa essere capitato è che probabilmente gli sono stati conguagliati dei consumi che prima non gli erano stati conteggiati. Però sicuramente sulla parte di componente di prezzo, se ha bloccato nel 2008, fino al 2010 non ha avuto sicuramente alcun tipo di ritorno. Eccoci ritrovati in diretta. Lorenzo Misani, responsabile Customer Care di Edison. Voi siete dall'altra parte del mio monitor, quindi non vedete che sto controllando sul sito Edison Casa tutta questa, come dire, questa paginata verde che spiega nel dettaglio la caratteristica principale della vostra offerta, soprattutto questa questione dello sconto del 20% sulla componente energia. Però questo è stato, come dire, il vostro cavallo di battaglia, però anche voi ovviamente avete proposto il blocco della tariffa alla vostra clientela, e per chi non è soddisfatto in questo momento vede le tariffe scendere e invece le ha bloccate magari al picco massimo, cosa può fare? Beh, intanto al momento non abbiamo tracce i nostri clienti insoddisfatti con i prezzi fissi, anche perché oggettivamente siamo partiti con questa proposta nel momento in cui il mercato, i clienti hanno iniziato a chiedere, quindi avendo già registrato da qualche mese, da inizio anno, come lei ricordava, la diminuzione dei prezzi, hanno immaginato per il prossimo futuro un incremento delle tariffe, quindi al momento non abbiamo traccia. Ovviamente noi come principio diamo la massima libertà al cliente di accedere a delle formule d'offerta diverse. Ovviamente a portafoglio abbiamo tante offerte, sul residenziale abbiamo utilizzato, come ricordava lei, Edison Casa, sul principio della trasparenza, del servizio, della semplicità e anche della tranquillità del cliente, perché come abbiamo ricordato prima, avere una tariffa un'offerta indicizzata, la tariffa di maggior tutela pubblicata dall'autorità, permette al cliente di, soprattutto nel residenziale, dove oggettivamente il mercato non è ancora maturo, permette ai clienti di vivere serenamente l'accesso al mercato libero. Questa è la condizione. Non abbiamo risposto all'ascoltatore di cui abbiamo letto prima un messaggio secondo il quale stanno passando passando nella sua azienda dei venditori Edison, ma anche sì, di altre società che invitano a fatturare con loro solo il consumo, lasciando all'Enel il canone. Non ho capito bene io la domanda? Non l'ho capita anch'io, però è molto probabile che si riallaccia a quello che diceva il dottor Tascini. Cioè, abbiamo visto come nelle tariffe abbiamo diverse componenti: la componente di energia, la componente di trasporto e distribuzione, poi gli oneri accessori, tasse, imposte, eccetera. Io credo che la gente abbia esemplificato al cliente questa coesistenza di diversi parametri tariffari. Ovviamente le aziende del mercato libero possono operare solo sulla componente energia, e di fatto probabilmente avrà voluto significare al cliente che la parte legata alle tariffe, agli oneri, e di fatto l'aveva chiamato canone. Sto guardando sugli appunti se non ricordo male, aveva usato questo termine, e di fatto sono oneri che sono indipendenti dal fornitore prescelto. Ecco, 2 anni di tempo sono sicuramente un tempo a questo punto sufficiente per valutare i benefici o le problematiche della liberalizzazione, e come dicevo prima ai nostri ascoltatori, stavamo facendo a microfoni spenti questo ragionamento con gli amici di Edison relativamente al fatto che comunque per gli operatori parlarsi è molto difficile. Questo ovviamente va a totale svantaggio del consumatore, che se chiede di fare il cambio di venditore ovviamente vorrebbe vedere questa operazione conclusa in un lasso di tempo ragionevole. Invece adesso, Misani, quanto ci vuole? Adesso chiaramente questa è una problematica che vi accomuna tutti, immagino. Sì, intanto volevo puntualizzare che nell'ottica del servizio al cliente noi stiamo cercando di sterilizzare qualsiasi impatto sul cliente. Cioè, i nostri clienti, anche nel caso in cui il distributore locale non riuscisse a con noi conciliare immediatamente lo switch, cioè il passaggio dal mercato vincolato al mercato libero o dal mercato libero al mercato libero con noi, stiamo cercando comunque di sterilizzare gli effetti negativi sul cliente, che però rischia di in qualche caso partire più tardi rispetto al previsto. I tempi minimi quali sono? Intanto c'è un mese pieno di recesso per i clienti del domestico, rispetto a un recesso dal contratto al fornitore precedente, e 3 mesi per i clienti micro business con partita IVA, quindi, che da mercato libero cambiano operatore. E sono tempi già abbastanza lunghi, soprattutto per il micro business. Ma perché, come viene che prima di tutto io devo disire il contratto con il vecchio operatore e poi eventualmente contestualmente aprirlo con quello nuovo? Oppure non è un dialogo, nel senso che io, ammettendo di voler passare al mercato libero, chiamo Edison e voglio sottoscrivere il contratto con Edison casa, non ci pensate voi a parlare con il mio vecchio? Ecco, esatto. Edison ha fatto questa scelta di campo e presumo anche potenzialmente altri operatori. Noi ci occupiamo di tutto, il cliente quindi ha la massima semplificazione di tutto il processo di switch, e di conseguenza con la firma del contratto da mandato a Edison per richiedere, anzi comunicare il recesso al fornitore precedente. Quindi il cliente in questo senso viene messo in una condizione di semplicità e di facilità. Il problema a cui accennavamo prima, quello a cui accennava, è che oggettivamente noi abbiamo oggi sul mercato, tra energia elettrica e gas, circa 400 distributori, ognuno con i suoi modelli formati per richiedere lo scambio dei dati o richiedere uno switch, e ognuno con il proprio canale, chi vuole la mail, chi vuole il fax, chi vuole la posta elettronica certificata, chi la raccomandata. Quindi c'è oggettivamente un onere di gestione, ma soprattutto una complessità per gli operatori nel gestire lo switch, che sono di fatto non un freno al mercato libero, ma, come ricordava lo stesso Massimo Ricci, un potenziale argomento su cui operare con una relativa urgenza. Tra l'altro, proprio se posso rubare gli ultimi 30 secondi, come Edison abbiamo già fatto presente sia l'autorità di regolazione, quindi l'autorità per l'energia elettrica e il gas, sia quella di controllo, che ci sono queste criticità che vanno da subito monitorate e quindi risolte. So che anche Enel sta facendo un bel po' di investimenti in questo ambito, Simone, il nostro, proprio per migliorare i sistemi informatici, puntare, mi diceva lei, ad un rapporto paritario con il cliente, che non so quanto possa essere possibile, ma di fatto quantomeno poter permettere un dialogo tra operatori che poi vada a vantaggio del cliente finale che vuole fare il passaggio, che vuole fare il cambiamento, lo nostro. Sì, si immagini che noi abbiamo già prodotto sul mercato libero 1,5 milioni di clienti, quindi un ordine di grandezza più delle problematiche che devono affrontare i nostri competitor, quindi sicuramente su questo tema abbiamo una sensibilità, una criticità di situazione molto, molto evidente. Il tema qui è proprio legato a quanto sentivamo prima: c'è una pluralità di distributori, una pluralità di mezzi di comunicazione e conseguentemente bisogna trovare spesso delle soluzioni che sono soluzioni manuali, e quando si gestiscono 1,5 milioni di clienti la soluzione manuale diventa terribilmente onerosa. Francesco dalla provincia di Milano, benvenuto. Fatto un sacco di passaggi lei, vedo. No, passaggi, uno solo. Innanzitutto buongiorno. Buongiorno anche a lei, ha ragione. Grazie della possibilità che mi date e buongiorno ai suoi ospiti. Il passaggio ne ho fatto uno, cioè io e mio figlio all'inizio dell'anno ci siamo ingolositi del contratto con tariffa bloccata per 2 anni. Mi scusi un po' l'emozione, poi è un ma po' no, ma è come se fosse a casa, Francesco, ci mancherebbe. Quindi siamo passati al contratto con tariffa bloccata per 2 anni, scegliendo la bioraria, eccetera, eccetera, e in più abbiamo scelto anche il gas. Però del gas non ne voglio parlare adesso. Il primo problema, cioè voglio fare una lamentela e una domanda. La lamentela è che il contratto viene considerato sulla base di una stima di consumi che uno ha precedentemente effettuato, con l'altro sì. gestore. Dalle prime bollette è risultato una sottostima molto molto alta, tant'è che mi sono io preoccupato di informarli e di dire guardate che avete sbagliato di molto. Hanno provveduto il bimestre successivo, a me hanno messo a posto, a mio figlio questa trasmissione di stamattina capita a fagiolo, perché mi ha telefonato e mi ha detto che gli è arrivata la bolletta di 200 euro, cosa che lui non consuma neanche in un anno. Sì. Perché invece c'è stata una sovrastima di consumi, quindi come dire, sono stati indicati dei consumi presunti troppo alti. Esatto. No, inizialmente sì, cioè consumi presunti troppo bassi, dei consumi presunti veritieri. Ah, ecco. L'Enel invece ha mandato le prime bollette con un loro errore di sottostima, che con il bimestre successivo hanno provveduto a sistemare. Benissimo. A me, mentre a mio figlio l'hanno sistemato per eccesso, sono andati a calcolare 5.000. La situazione qual è adesso, Francesco, perché stiamo chiudendo, quindi la sua domanda qual è? Niente, la mia lamentela è che non riesco a mettere a posto questo problema. Benissimo. Ho già mandato 4 fax. Sentiamo lo nostro, Simone, lo nostro. Insomma, questa storia dei consumi presunti ci fa sempre un po' arrabbiare. Magari in una circostanza, se sono sottostimati, ci sta anche bene, però poi non è che ci vada sempre bene. In ogni caso, anche lì, poi temiamo che ci arrivi sempre la bolletta esplosiva. Possibile che non si possa dialogare per dare un conteggio giusto dei nostri consumi? Dunque, stiamo lavorando in questa direzione, la cosa ovviamente non si verifica regolarmente, però diciamo che anche in questo caso la problematica è facilmente risolvibile e da un certo punto di vista è un caso che normalmente riusciamo a risolvere in tempi abbastanza brevi. Questo probabilmente ci è sfuggito. Di nuovo, se abbiamo la possibilità di recuperare i contatti del signor Francesco e del figlio anche, sì, infatti, perché ha pagato 200 euro in un anno. Io personalmente mi interesserò affinché il paglio venga fatto in maniera puntuale. Edison, c'è un problema anche per voi, pensavate di scamparla. Stefano da Savona però deve essere telegrafico, la ringrazio. Certo, buongiorno. Allora, io ero con Enel e mi sono trovato dei mesi a pagare una bolletta, tipo febbraio pagato, marzo pagato di nuovo. E io non ho sono da solo, lavoro, non ho possibilità di andare in posta ogni quanto voglio. Poi ho detto, vabbè, stufato, sono passato a Edison ad aprile, perché la bolletta di marzo è successo. Però adesso siamo a luglio e ancora non mi è ancora arrivato niente, non si sono fatti più sentire. Io ho aspettato ancora un po', ho detto poi magari li richiamerò, ancora non l'ho chiamato. Adesso li chiamiamo noi, Stefano, eccolo qua, Lorenzo Misani. Possibile che a 4 mesi di distanza, purtroppo ho 20 secondi di tempo. Sì. Beh, aprile e maggio sono il periodo di consumo, quindi la bolletta dovrebbe uscire nel mese di giugno. Il problema è quello che abbiamo citato prima, la relazione con i distributori locali, che sono i tenutari dei dati del contatore. Se non ci comunicano la lettura di switch e non ci comunicano i dati tecnici per emettere la prima bolletta, non riusciamo di fatto a produrre velocemente la prima bolletta come il cliente se l'aspetta. Sono casi, pochi casi, noi oggi però oggettivamente ci sono. L'importante è che poi a Roberto ne chiarivi oltre al danno alla beffa, la bolletta anche che è incontrollabile dal punto di vista del consumo. Può fare anche con noi l'autolettura, per cui assolutamente in questo senso è tutelato. Suggerirei di chiamare il contact center proprio per la rapidità di risposta che riesce ad ottenere. Benissimo. Grazie a Lorenzo Misani di Edison, Simone Lonostro di Enel, Roberto Tascini di Adoc, che non sono riuscito a far parlare nell'ultima parte di Salvadanaio, ma Tascini ormai ci conosce, è abituato, lo reinviteremo sicuramente presto. Grazie a tutti, il mercato libero ha ancora tanti problemi aperti, speriamo anche tante opportunità per i consumatori, ma torneremo di nuovo a sentirvi su questo tema. Da Deborah Rosciani, a domani.